siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato! Ciao mascotte, buongiorno, tutto a posto? Gnami. Certo, la mascotte mangia, che domande. Ci mancherebbe altro. Mangia cornflakes a luna. Sì, insomma, ognuno ha i suoi gusti. I cornflakes io li mangio più volentieri al mattino, la mascotte li mangia a luna. Comunque, detto questo, puntata variopinta, perché come ormai... Variopinta. Variominta. Pinta. Penta. Penta. Spenta. Beh, mascotte, mi sei la puntata vario spenta. E invece purtroppo no. Oddio, purtroppo, per fortuna direi, perché abbiamo veramente molti contenuti in questa puntata. Come vi abbiamo già detto, Dedicato è stata in giro per tutta l'estate a fare laboratori e a acquisire materiale creato direttamente dai bambini e dai ragazzi di questi laboratori. Quindi ora, da qui a tempo indeterminato, noi vi manderemo i contenuti di questi laboratori. E oggi partiamo con una realtà molto bella, che è la Quarta Foglia. Yummy! Sì, dicevo, la Quarta Foglia, yummy, questo si interviene così, che è un luogo in Piemonte, nel Monferrato. Sono genitori che gestiscono questo asilo parentale, ma è anche un gruppo culturalmente attivo, e quindi noi abbiamo fatto i nostri laboratori con i bambini di questo luogo fantastico, che ovviamente salutiamo tutti i bimbi, i ragazzi, gli educatori della Quarta Foglia. Ciao mascotte, bau, ciao, no, ciao, bau, bau. Dell'entusiasmo mascotte, miau. Va bene, mandiamo il primo contributo di alcune fanciulle della Quarta Foglia. Sono concentrata sui cornflakes. Sì, cornflakes. Ah, a voi il nostro contenuto. Ciao bimbe, come vi chiamate? Aurora, Adele. Ok, allora voi mi avete chiesto di parlare di un argomento interessante, e cioè lo zoo. Cos'è uno zoo? Spieghiamolo magari anche ai bimbi più piccoli. È un posto dove ci sono degli animali dentro delle gabbie. Ok, e a voi piace andare allo zoo? Ci vado poche volte, però a certi momenti sì, certi momenti no. A me piace andare allo zoo per vedere gli animali, però comunque vederli nelle gabbie e non nel vero loro habitat non mi piace. Ok, e come mai mi avete chiesto di parlare dello zoo? Per fare capire alle persone che lo zoo, cioè che gli animali potrebbero stare nel loro ambiente, e se vengono trovati che non stanno tanto bene, aiutarli, ma poi rimetterli dove erano, non metterli nelle gabbie per farli vedere alle persone. Certo. Senti, mascotte, invece tu sei andata in gita con la scuola quest'anno a Monteadone. Che cosa c'è a Monteadone? È vicino a Bologna. Noi qui siamo alla Quarta Foglia in Piemonte, quindi è un po' lontano per questi bimbi. Però tu hai la fortuna di aver visto questo posto. Che cos'è il posto di Monteadone? Monteadone è una riserva naturale, solamente che sono animali feriti o presi dal loro habitat feriti e salvati. Riprendono dal loro habitat e se li tengono in casa, e perciò questa associazione di Monteadone riprendono dalle persone che riprendono dal loro habitat e li mettono a Monteadone, visto che magari gli animali esotici, essendo che magari hanno già fatto l'imprinting con l'uomo, non se la sanno cavare nel loro habitat. Ma che animali ci sono a Monteadone? Anche animali tipo le tigri? Certo, tigri, leoni, scimpanzé, scimmie, ghepardi, giraffe. Quindi sono animali che vengono presi anche dai circhi e dagli zoo? Sì, salvati dalle cattività. Ok, quindi Monteadone è un posto dove Adele potrebbe vedere gli animali, però non in gabbia, ma anzi felici, e dove hanno ricreato un loro habitat. Sì. Ok, Adele, ti piacerebbe un posto di questo tipo? Anche qui in zona? Sì, sì. Più di uno zoo, insomma, no? Sì. Ciao bimbe! Ciao! Ciao! Ciao. Cambia senso, scuote le magnolie e porta in grembo brezza fresca ogni tassoni e polvere. E c'è chi dice certe cose, lei non riesca a coglierle. Giulia si alza, provi passi, danza in pochi metri. La pelle bianca che ricama gli occhi mansueti ed ogni goccia di pioggia sui vetri la mira mentre appoggia la punta dei piedi. Lei da bimba ballerina quasi come le altre, sembra quasi che improvvisi mentre impara l'arte. Stesse scarpe bianche, guance calde, sento il buio che si espande mentre lei diventa grande. A volte cade, si fa male, sente in sala le risate, sente il vento fra gli spazi che non trova più. E Giulia si alza, danza e tace, cerca pace, tiene l'aria nel torace, poi riprova un battimento. I giudizi più ingiusti, i pietismi, gli insulti, i giudizi più insulsi, i buonismi di tutti. E Giulia danza nella sala fino a distruggersi, il palco della scala fino a distruggersi. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei, dai, dai, dai, fidati di te, riuscirai, riuscirai e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento, dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo, quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecar, l'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Poi piano piano il buio scende, non le resta scelta, la luce opaca che si spegne diventando tenebra. E non c'è più il suo stile fra le altre ballerine, le sue scarpe appese al chiodo come due suicide. Mentre piange da tempo, soffia il vento sopra il vetro, sembra quasi sussurrarle fra le gocce che ti stai facendo più male tu sola ogni ora di quanta te ne ha fatta sta sorte che ti odia. Giulia si alza tra i cocci dei sogni distrutti, la danza oltre gli occhi, nel corpo e nei flussi. Questa sera sarà l'arte qua a darle i suoi frutti, quando ballerà con le altre di fronte a tutte e tutti. Giulia stupisce quando danza nel buio, mentre balla sopra il palco lascia il pubblico muto. Mossi i drappi di Damasco, il sipario ormai chiuso, prima un battito solo, poi l'applauso e un diluvio. Giulia rincasa, sente il vento, il profumo s'addormenta, sogna i lumi, poi l'applauso diffuso. Sente i fiori sopra il palco, ogni applauso futuro. E non è vero, sai che i ciechi sognano il buio. Poi un soffio d'aria tra di la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei, dai, dai, dai, fidati di te, riuscirai, riuscirai e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento, dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo, quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecar, l'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Raggio dentro il temporale, salza il vento di Grecar, l'aria in senso circolare, danza del suo porticare. Morobutu, Grecale! Io amo Grecale! Lo so che è una delle tue canzoni preferite. La voglio imparare a cantare, a suonare, a ballare È bellissima. Che altre cose si possono fare con una canzone? Ma veramente anche introitarla e creare emozione. Vabbè, mascotte, ne parliamo poi. Volevo dire, Morobutu, compagno, amico, siamo stati insieme in Sicilia anche quest'estate un paio di giorni dove lui ha fatto un talk meraviglioso. Io gli voglio tanto bene a Morobutu. È veramente un grande. E parte con il suo tour nei teatri con una jazz band a novembre, quindi fra poco partirà con questo tour. Noi ovviamente mascotte lo andremo a vedere al Teatro Duse a Bologna il 7 di novembre. Quindi grande Morobutu, grande! Bene. Ora, continuiamo con i nostri contenuti, abbiamo un sacco di cose da farvi ascoltare oggi, quindi andiamo con i bambini del laboratorio dedicato della Montagnola. Frida nel Parco quest'anno, che è la baracchina della Montagnola, ci ha dedicato perché tutto è filologico, ci ha dedicato uno spazio dove noi abbiamo fatto il nostro laboratorio. Ecco a voi, bimbi della Montagnola! Ciao ragazze, siamo qui a Frida nel Parco in Montagnola. Allora, io so che voi conoscete quel bimbo nel passeggino, come si chiama? Leonardo. Ah, Leonardo, ok. Sì, ma scusa, e tuo fratello come si chiama? Leonardo. Ah, e quello è tuo fratello? Sì. No, no, no. Ah, quello non è tuo fratello, quindi no. Il bambino nel passeggino si chiama Leonardo e tuo fratello si chiama Leonardo. Sì. Ok, ciao, tu come ti chiami? Nausica. Ciao Nausica, che nome meraviglioso. E scusa, tuo fratello come si chiama? Leonardo. Ah, come il fratello di Stella? Sì. E come il bambino nel passeggino? Sì. Ah, ok. Scusa, ma Scott, come si chiama tuo cugino? Leonardo. Ma mi state prendendo in giro, scusate? No. Ma allora, quanti Leonardi abbiamo? 1, 2, 3. Quattro Leonardi, tutti in questa intervista. Molto bene, grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Chiami? Luca. Qual è il tuo animale preferito? Il pinguino. Che bello animale. Colore preferito? Leone. No, colore preferito? Il colore? Il verde. Anche il mio. Quanti anni hai? 3. Ciao, grazie. Grazie a Frida nel Parco della Montagnola, grazie ai bambini che hanno partecipato al nostro laboratorio. Ovviamente abbiamo altri contenuti realizzati nei laboratori in Montagnola che manderemo nelle prossime puntate. E adesso, Mascotte, scusa, cosa stai dicendo? Ma oggi essere ultimo giorno di scuola! Ma cosa dici, che è ottobre? No! Ma dai, per favore! Io voglio essere ultimo giorno di scuola! Ah, quello che tu vuoi, non è quello... No, io essere l'ultimo giorno di scuola. Tu sei l'ultimo giorno di scuola? No, io essere giorno di scuola. Ma tu sei un giorno di scuola? No, io essere ultimo giorno di scuola. No, io essere volere andare il giorno di scuola. Tu vuoi, scusa, non ho capito. Io essere volere finire scuola. Ehi, la strada è lunga. Cifra una stessa. passi di Godzilla, né coi passi della Bibbia, Gaia sopravviverà a questi cazzo di asteroidi che non hanno mai schiacciato neanche una farfalla. Sei tu che tratti Gaia come una recluta naia. Ami il petrolio ma la paia non è una caldaia. La tua mannaia, l'Himalaya, mica l'Himalaya. Gaia si salverà, chi salverà il soldato Ryan. Non i marziani ma te dovrò respingere. Non i marziani ma te dovrò respingere. Caparezza, la fine di Gaia, grande Capa, sempre al top, e d'altronde la nostra mascotte è una delle sue canzoni preferite, quindi ce l'ha intonata prima che partisse il pezzo, non potevamo fare altro che mandarlo. E ora invece passiamo a un argomento lontano dalla nostra regione, perché parliamo della Calabria e parliamo di un meraviglioso festival che è il Festival d'Autunno, che si tiene a Catanzaro ogni anno, organizzato da Antonietta Santacroce, il direttore artistico di questo festival, nonché la mente creativa. Noi ne parliamo perché questo weekend, il 5 di ottobre, quindi questo sabato, sarò ospite al Festival d'Autunno insieme ad Alessandro Meacci. Io ho scritto i testi, seguo la regia e sarò la voce recitante di questo spettacolo, mentre Alessandro Meacci ha composto le musiche e sarà mio compagno in scena, appunto, come musicista, pianista, musiche elettroniche, effetti. Quindi sarà uno spettacolo veramente a 360 gradi, si chiama My Journey to Beijing. Parla della storia d'amore di Marco Polo e Hao Dong, che era figlia dell'imperatore quando lui arrivò in Cina, e è una storia d'amore poco chiacchierata, come dire, ma molto interessante. Abbiamo sviluppato appunto questo spettacolo per questo anniversario di Marco Polo di quest'anno, ma al Festival d'Autunno quest'anno c'è anche un altro anniversario importante, che è quello di Puccini, quindi abbiamo messo insieme delle storie d'amore anche orientali, perché Puccini con Turandot ha raccontato l'Oriente a modo suo. Ma adesso noi abbiamo come ospite proprio Antonietta Santacroce, direttore artistico del Festival d'Autunno, che ci racconta un po' come nasce questo festival e come è andato avanti in questi anni. Quindi le lasciamo la parola. Presentiamo la 21esima edizione di Festival d'Autunno, che si propone al pubblico con un concept completamente rinnovato. 24 sono gli eventi in cartellone, con ben 7 prime nazionali assolute, 5 coproduzioni con realtà importantissime a livello nazionale e 2 produzioni originali del festival. Un programma molto articolato che spazia dalla lirica al pop, al jazz, alla danza, per coinvolgere con le sue produzioni originali e fuori dal mainstream il pubblico proveniente da tutta Italia. Sono 6 fine settimana che si alternano dal 3 ottobre al 3 novembre. Ogni fine settimana è dedicato a un genere diverso, così da appunto interessare il pubblico proveniente da tutta Italia e non solo i calabresi. Grazie Tonia, grazie davvero, è un festival veramente interessante e in crescita ogni anno, e devo dire che questa collaborazione mi rende veramente molto felice. Quindi niente, ci vediamo sul palcoscenico a Catanzaro il 5 di ottobre, e se non ci vediamo lì avrete comunque nostre notizie di questo spettacolo, perché andrà avanti, insomma. Grazie anche a Tonia per l'appunto che ci ha dato questa possibilità di una prima nazionale all'interno del Festival d'Autunno. Float like a feather Radiohead, Creep. Allora, torniamo indietro di un passo. Voglio raccontarvi i progetti che hanno ospitato i nostri laboratori estivi, perché siamo stati veramente felici. È un'estate produttiva, interessante, di crescita per tutti quanti. E il ringraziamento più grande, oltre che ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato, va alle realtà che ci hanno ospitato. Allora, partiamo dalla Quarta Foglia. La Quarta Foglia è un progetto parentale che nasce da un gruppo di famiglie unite dall'idea di creare una comunità educante basata sui principi di condivisione, attenzione dell'individuo e connessione con l'ambiente. Promuove un apprendimento esperienziale, cooperativo e di rapporto con il tessuto sociale, con una speciale attenzione ai tempi di ogni bambino, cosa non poco rilevante, devo dire. È un laboratorio perenne, chiamiamolo un asilo nel bosco, più comunemente detto. Però in realtà il gruppo parentale Quarta Foglia fa un sacco di cose. Quindi noi siamo stati ospiti perché all'interno del centro estivo che loro hanno organizzato abbiamo fatto il nostro laboratorio. Quindi grazie, io ho spiegato brevemente quello che insomma loro mi hanno scritto sul loro progetto, ma ci sarebbe da dire veramente tantissimo. Poi vorrei passare invece alla Montagnola, il nostro parco storico cittadino. C'è la baracchina, quella che una volta era la banalissima baracchina dei gelati, dove io che andavo alla materna lì compravo il ghiacciolo e i popcorn tutti i pomeriggi. Ora invece quella baracchina è stata trasformata, è sempre la baracchina dei gelati, però ha un gruppo di ragazzi che la gestisce e che organizza attività culturali, di qualunque tipo, da concerti, laboratori, mostre, stage, presentazioni di libri, tutte cose veramente belle, coinvolgenti sia per le famiglie sia per i bambini, per gli anziani, per chiunque insomma. Quindi grazie anche a Frida nel Parco con il loro progetto veramente eccezionale che oltretutto dà vita alla Montagnola creando contenuti interessanti. Poi ci teniamo a ringraziare anche l'OCAP, che è un gruppo di associazioni che ha creato questa rete nell'Appennino Tosco Emiliano, nella fattispecie noi eravamo a Vidiciatico, vicino al Corno alle Scale, ma non solo lì insomma si lavora con l'OCAP, è in giro per l'Appennino e creano diciamo attività culturali, sociali, hanno presentazioni di libri, camminate, spettacoli, laboratori. Insomma, c'è una bellissima collaborazione anche con il Cinema La Pergola di Vidiciatico, che fa delle proiezioni veramente interessanti ed è un vecchio cinema che sta riprendendo vita. Quindi sono veramente quei momenti belli, no? Che si vivono, e l'OCAP li sta rendendo possibili. Quindi grazie anche a questa rete che lavora quotidianamente sul territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano. E poi, come ultimo ma non ultimo, ringraziamo tutte le persone, i bambini, gli adulti, i ragazzi, gli anziani che ci hanno incontrati in giro e ci hanno voluto raccontare delle storie, perché anche loro faranno parte di Dedicato, quindi nei nostri viaggi al di là dei laboratori abbiamo incontrato persone meravigliose che ci hanno seguito nel nostro percorso e hanno giocato con noi. Quindi grazie a tutti. Noi direi che ci risentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì, sempre alle 13, su Radio Città Fujiko. Ciao!